parlo per me perché la mia è stata una reazione assolutamente spontanea e immediata, così come però ci siamo resi conto che è stata quella di tante e tanti, possiamo dire, italiani a questo punto che vivono in Italia, e cioè che si tratta di un atteggiamento assolutamente paternalistico che non possiamo più accettare. E ti parlo da una che ha accettato non solo, ma anche condiviso e rispettato le regole per il bene della collettività, però a questo punto non si può più sopportare di venire trattati come dei bambini a cui dire quello che si può fare e soprattutto a cui dire quali sono le persone che fanno parte della propria, diciamo, affettività. Qui vuol dire tenere fuori tantissime persone, vuol dire tenere fuori chi, per esempio, una famiglia non ce l'ha più, chi invece ha una famiglia d'elezione che può essere quella di amiche, amici con cui si costruiscono relazioni importanti e fondanti. Vuol dire escludere chi non ha un legame di sangue, ancora siamo al legame di sangue, vuol dire escludere chi non ha un contratto, quindi un matrimonio, ma anche un'unione civile, vuol dire non considerare per niente, per esempio, i bambini e le bambine. Conte non ha nominato i bambini e le bambine, e poi ci sono i bambini e le bambine delle famiglie arcobaleno, ad esempio, che nel caso migliore in cui, diciamo, la coppia vive ancora insieme, magari anche unita civilmente, magari c'è stata una stepchild adoption, però in ogni caso sappiamo benissimo che con la stepchild adoption, per esempio, tutta la linea familiare di parentela del genitore o genitrice sociale non esiste per legge, esiste solamente il legame appunto con il genitore o la genitrice sociale. Tutto questo investimento in infinite task force, dalle task force comunali alle regionali, per arrivare alla mega task force di top manager e top intellettuali, per lo più uomini, che non riescono nemmeno a stabilire che magari ci potrebbero essere due o tre persone o quattro persone da indicare per poter, diciamo così, andare a fare una visita a qualcuno, a qualcuna, è veramente allucinante. Cioè, lo Stato non può limitare in questo modo la libertà delle persone di autodeterminarsi. Lo Stato sceglie quali devono essere le nostre relazioni, in sostanza. Esatto, sceglie quali devono essere le nostre relazioni e come devono essere regolate, organizzate legalmente, e al di fuori di quello non esiste niente, non esistono i gruppi che stanno insieme per affetto, per sostegno, l'automutuo aiuto, le famiglie che possono essere di diverso tipo. In tutto questo periodo abbiamo visto che in realtà sono esclusi i bambini e le bambine da qualsiasi discorso, ed è importante, anche questo è fondamentale. Le donne sono escluse, assolutamente mai nominate, per non parlare del fatto che non sono lì a comunque pensare di poter fare una proposta o decidere. Non parliamo delle soggettività LGBTQ, perché proprio non vengono assolutamente considerate, ma anche tutta una serie di persone che comunque fanno delle libere scelte. La legge del padre, la famiglia, è, diciamo, un'istituzione che è altamente superata nella realtà e che comunque, pur magari essendo maggioritaria, contiene al suo interno stesso tantissimi pericoli e tanta violenza. Voglio dire, anche le donne che stanno in una relazione violenta, che sia con un compagno o con una compagna, non possono pensare di dover ritornare solo in quel luogo, di poter stare solo a contatto con quella persona.